Quando sono solo sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con me, con me, con me, con me, con me.